Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat. Stasera leggiamo un racconto di Jack London intitolato Preparare un fuoco, nella traduzione di Davide Sapienza, pubblicato da Mattioli 1885. Preparare un fuoco è un racconto che Jack London scrisse a più riprese e io stasera leggerò la versione, l'ultima versione, apparsa su The Century Magazine nel 1908 e poi pubblicata nella raccolta Lost Face del 1910. Buon ascolto e buona serata. Freddo e grigio, esageratamente freddo e grigio, il nuovo giorno era arrivato. L'uomo abbandonò la pista battuta che correva sulla superficie ghiacciata dello Yukon e si inerpicò sull'alto argine di terra dove, attraverso l'ampia e folta foresta di abeti, sbucava una traccia poco battuta diretta ad est. L'argine era ripido. Arrivato in cima, l'uomo si fermò. Ansimava e si sentiva ormai senza fiato, ma preferì convincersi che si fermava a controllare l'ora. 9 in punto, neanche un raggio di sole, dall'orizzonte senza nuvole neppure un briciolo di luce. La giornata, sì, era limpida, ma ogni cosa sembrava avvolta in un sudario impalpabile, un'ombra sottile che teneva al buio il giorno. Era l'assenza del sole a rendere tetra ogni cosa. Di questo all'uomo non importava, era abituato all'assenza del sole. Non lo vedeva ormai da giorni e sapeva che altrettanti ne sarebbero trascorsi prima che da sud la gioiosa sfera facesse capolino all'orizzonte, per poi rituffarsi subito lontano. L'uomo diede una rapida occhiata verso il paesaggio che si era lasciato alle spalle. C'era il fiume Yukon, largo 1,5 km, nascosto sotto 1 metro di ghiaccio, e sopra questo ghiaccio c'era un altro 1 metro di neve. Ogni cosa era bianca purezza, distesa nelle curve gentili formatesi dove il fiume, gelando, aveva compresso e rialzato il ghiaccio. A nord e a sud, e fin dove arrivava lo sguardo, era tutto biancore immacolato, tranne la sottile linea scura che curvava in direzione sud e serpeggiava attorno all'isola coperta di abeti, piegando a nord, dove svaniva dietro un'altra isola, anch'essa ricoperta di abeti. La sottile linea scura era la pista principale. 800 km più a sud arrivava al passo Chilkoot, sin giù a Diea e infine al mare. 90 km più a nord invece toccava Dawson City. Poi, dopo 1600 km, c'era Nulato e infine, quasi 2500 km a nord, terminava a St. Michael, sul mare di Bering. Ma queste considerazioni, la misteriosa e precisa distanza della linea della pista, l'assenza di sole dal cielo, il freddo tremendo e la strana bizzarria dell'atmosfera non facevano effetto sull'uomo. Non poteva essere abitudine perché era un nuovo arrivato, un cecciacuo, e anche questo era il primo inverno che trascorreva nella regione. Il suo guaio era un altro, non aveva immaginazione. Sì, era vigile e svelto nelle cose della vita, ma non sapeva coglierne il significato. 45 gradi sotto zero significavano oltre 60 gradi di gelo ed erano un indicatore impressionante di freddo e malessere. Tutto qui. Questo fatto non lo spingeva a meditare sulla propria fragilità. Lui, creatura da clima temperato, oppure circa la fragilità umana in generale, visto che l'uomo può sopravvivere solo in certe condizioni, comunque piuttosto miti, di freddo e di caldo. Questo fatto, in altre parole, non lo induceva a riflettere sull'immortalità o sul posto che l'uomo occupa nell'universo. 45 gradi sotto zero parlavano a morsi di un gelo che faceva male e dal quale bisognava proteggersi usando muffole come guanti, paraorecchie, mocassini caldi e calze pesanti. Per lui invece, 45 gradi sotto zero significavano 45 gradi sotto zero. E tanto bastava. Che questo semplice fatto implicasse altro era un pensiero che non l'aveva mai nemmeno sfiorato. Voltò nella direzione di marcia per ripartire e sputò in terra con aria assorta, ma accadde una cosa. Un crepitare esplosivo lo fece sussultare. Sputò una seconda e una terza volta in aria. Ecco cos'era. Prima di poter toccare il terreno, lo sputo crepitava. Lui sapeva che se sputi a 45 gradi sotto zero, la saliva crepita quando arriva sulla neve, ma il crepitare di questo sputo era partito in volo. Non c'era dubbio, faceva più freddo di 45 gradi sotto lo zero. Ma quanto più freddo, questo non lo sapeva. La temperatura però non era importante. Era diretto alla concessione sulla diramazione sinistra dell'Henderson Creek. I ragazzi erano già lì, erano arrivati superando lo spartiacque che veniva dalla regione dell'Indian Creek. Lui invece aveva fatto una deviazione per valutare la possibilità di trasportare i tronchi fuori dalle isole del fiume Yukon in primavera. Quella sera alle 6 sarebbe arrivato al campo, al buio è vero, ma avrebbe comunque trovato i ragazzi ad accoglierlo, davanti a un bel fuoco e con un pasto caldo. Pensando al pranzo, palpò il fagotto che formava il rigonfiamento sotto il giaccone. Lo teneva avvolto in un fazzoletto sotto la maglia, contro la pelle nuda. Era l'unica maniera per evitare che le gallette congelassero. Sorrise compiaciuto al pensiero che ognuna di quelle gallette, tagliate e inzuppate nello strutto, accoglieva una generosa fetta di pancetta fritta. Si diresse con slancio verso i grandi abeti, dove la pista era quasi invisibile. Dall'ultima volta che era passata una slitta, 30 centimetri di neve l'avevano ricoperta. Si sentiva felice, perché non aveva una slitta e viaggiava leggero, portava solo il pranzo avvolto nel fazzoletto. Ma il freddo, va detto, lo aveva sorpreso. Sfregandosi naso e zigomi addormentati, con le mani inguantate, concluse che sicuramente faceva un gran freddo. Aveva le basette folte, ma quei peli sul viso non bastavano a proteggere gli zigomi alti e il naso pronunciato, che si protendeva grintoso nell'aria gelida. Un grande cane lo seguiva a passo svelto. Era un husky nativo, il vero cane lupo dal manto grigio che non mostrava differenze apparenti o caratteriali rispetto al fratello lupo selvatico. L'animale risentiva del freddo tremendo. Sapeva che non era il momento giusto per viaggiare. Il suo istinto lo metteva in guardia di fronte a una verità che i ragionamenti dell'uomo continuavano a ignorare. In realtà, non faceva semplicemente più freddo di 45 gradi sotto zero. La temperatura era scesa oltre 50-55 gradi, superando anche 60-70 sotto zero. C'erano 75 gradi sotto zero. E dato che il punto di congelamento è a 32 gradi Fahrenheit, significava dover affrontare 107 gradi di ghiaccio. Il cane non sapeva nulla di termometri e nel suo cervello probabilmente non esisteva una percezione acuta della condizione di freddo estremo, come quella che abitava nel cervello dell'uomo. Ma dalla sua, la bestia aveva l'istinto e l'istinto trasmetteva al cane una sensazione vaga, ma sinistra, che lo sottometteva, facendolo trottare furtivo alla calcagna dell'uomo. Era la stessa sensazione che lo metteva in guardia ogni volta che l'uomo azzardava il minimo gesto fuori dall'ordinario, qualsiasi cosa che lo inducesse a pensare che quell'umano fosse in procinto di preparare un campo, cercare un riparo e accendere un fuoco. Il cane aveva imparato che cos'era il fuoco e adesso quel fuoco lo voleva, o almeno avrebbe voluto scavarsi un buco nella neve e raggomitolarsi lontano da quell'aria per non disperdere ulteriore calore. L'umido, congelato del fiato si era depositato sul pelo trasformandosi in una sottile polvere di ghiaccio, specialmente sulle mascelle, sul muso e sulla cinghia sbiancata dal respiro cristallino. La barba rossa e i baffi dell'uomo erano ben più congelati. A ogni respiro umido che esalava, lo strato di ghiaccio si faceva più spesso. L'uomo masticava tabacco e la museruola di ghiaccio bloccava le sue labbra al punto che quando doveva sputare non ci riusciva. Il risultato era che la barba, che ormai aveva il colore e la consistenza di un'ambra cristallina, continuava ad allungarsi sul mento, tanto che se fosse caduto a terra si sarebbe frantumata in minuscoli frammenti come vetro. Non che gli importasse granché. Essendosi trovato già due volte in situazioni simili, sapeva bene che chi masticava tabacco in quella regione pagava un simile pedaggio. Certo, le altre due volte non faceva così freddo, ma il termometro a spirito di 60 Mile sapeva che in quell'occasione la temperatura scendeva a 45-50 sotto zero. Tenne duro e per diversi chilometri marciò attraverso le piatte distese di foreste, superando un'ampia spianata di arbusti velmosi, abbassandosi sino a un argine, e quindi sul letto gelato di un piccolo torrente. Adesso era sull'Henderson Creek e sapeva che da qui alla diramazione c'erano altri 16 chilometri. Quando controllò l'orologio erano le 10 in punto. Coprendo 6 km all'ora, come aveva fatto fino a quel momento, avrebbe raggiunto la diramazione per le 12 e mezza. Avrebbe celebrato l'evento consumando il suo pasto lassù. Il cane gli si riavvicinò con la coda a penzoloni per lo scoramento. Aveva visto l'uomo fiondarsi lungo il letto del torrente gelato. Il solco della vecchia pista tracciata dalla slitta era ancora evidente, ma ormai 5 centimetri di neve coprivano le tracce degli ultimi pattini che l'avevano solcata. Da un mese a questa parte nessuno aveva percorso il silenzioso torrente. L'uomo proseguì senza indugio. Non era molto portato a pensare, e in quel particolare frangente non c'era nulla a cui pensare, se non che avrebbe consumato il pranzo alla biforcazione e che alle 6 di sera sarebbe stato al campo con i ragazzi. Non c'era nessuno con il quale parlare, ma anche se ci fosse stato sarebbe stato impossibile aprire la bocca, con quella museruola di ghiaccio stampata in faccia. Continuò meccanicamente a masticare del tabacco, contribuendo così a aumentare la lunghezza della barba ghiacciata. Puntuale, ogni tanto si ripresentava un pensiero. Faceva molto freddo e non aveva mai provato un freddo del genere. Mentre procedeva, con un gesto automatico e cambiando mano ogni tanto, si strofinava gli zigomi e il naso con il dorso della mano guantata. Ma, per quanto strofinasse, non appena smetteva, gli zigomi tornavano a essere insensibili. E dopo un attimo, lo stesso valeva per la punta del naso. Ne era certo, si sarebbe congelato gli zigomi. E provò una fitta di rimorso per non aver pensato a un paranaso, una fascia come quella che usava Bud quando arrivavano questi attacchi di freddo, passandola sulle guance che venivano così risparmiate dal freddo. Ma non importava. Dopotutto, cos'erano due guance congelate? Un po' di dolore e via, niente di così grave. Se la sua mente era sgombra dai pensieri, lo spirito di osservazione era invece acuto. Annotava i mutamenti del torrente, le curve, le pieghe e i cumuli di legname, oltre a prestare particolare attenzione a dove metteva i piedi. Ad un certo punto, dietro un'ansa, scartò d'improvviso come un cavallo colto di sorpresa, deviò dal punto in cui camminava e indietreggiò sulla pista per diversi passi. Sapeva bene che il torrente era congelato sì sul fondo, visto che nessun torrente poteva trattenere acqua durante l'inverno artico. Sapeva altrettanto bene che c'erano sorgenti che sgorgavano dalle pendici dei colli e che sotto la neve scorrevano fin sopra la superficie ghiacciata del torrente. Neppure gli attacchi di freddo più intensi potevano congelare queste sorgenti che erano quindi molto pericolose. Erano trappole. Sotto la neve esse nascondevano pozze d'acqua profonde un centimetro o anche un metro. Potevano essere ricoperte da uno strato di ghiaccio di mezzo centimetro, ricoperto a sua volta dalla neve, e si potevano trovare strati alternati di acqua e ghiaccio. E quando uno si spezzava, sprofondavi, ritrovandoti immerso sino alla cinta. Per questo, l'uomo si era prontamente tirato indietro, allarmato. Aveva sentito cedere il terreno sotto i piedi, aveva sentito crepitare la crosta di ghiaccio nascosta dalla neve. Bagnarsi i piedi a simili temperature significava solo guai e pericolo. Avrebbe come minimo comportato un ritardo, poiché sarebbe stato costretto a fermarsi, preparare un fuoco per proteggersi e a piedi nudi far asciugare calze e mocassini. Restò immobile a studiare il letto del torrente e gli argini. Decise che l'acqua sgorgava dal lato destro. Per un po' rimase lì pensieroso, sfregando naso e zigomi, quindi, costeggiando l'argine sinistro, avanzò cauto, testando il terreno ad ogni passo. Scampato il pericolo, mise in bocca una manciata di tabacco fresco e tornò alla sua andatura di 6 km orari. Nelle due ore seguenti si imbatté in molte altre trappole. Generalmente la coltre di neve che nascondeva le pozze sembrava una glassa candita e il pericolo era annunciato dall'aspetto infossato. Nonostante le precauzioni, ancora una volta rischiò il disastro e in un'altra occasione, fiutando il pericolo, costrinse il cane a procederlo. Ma il cane non voleva andare. Si ritrasse sinché l'uomo non lo spinse avanti, facendogli attraversare veloce la bianca superficie intatta. Il cedimento fu improvviso. Il cane, dibattendosi, riuscì a portarsi su un terreno più solido. Aveva le zampe anteriori bagnate e le gocce d'acqua quasi immediatamente si trasformarono in ghiaccio. Il cane cercò subito di leccare via lo strato gelato, poi si buttò nella neve mordendo il ghiaccio incrostato tra le zampe. Era una questione di istinto. Lasciato dov'era, il ghiaccio gli avrebbe causato dolori alle zampe. Il cane questo non lo sapeva. Stava semplicemente obbedendo al misterioso suggerimento che saliva dai recessi nascosti del suo essere. L'uomo invece sapeva. Si era fatto un'idea del problema e rimosso la muffola dalla mano destra, lo aiutò a staccare i ghiaccioli dal pelo. Le dita esposte al freddo, in meno di un minuto, furono preda di un'improvvisa insensibilità che sbalordì l'uomo. Faceva davvero freddo. Si rimise velocemente una muffola e cominciò a battersi selvaggiamente la mano sul petto. Alle 12 in punto la luce del giorno era ormai al suo massimo, ma il sole, impegnato nel proprio viaggio invernale, era ancora troppo lontano a sud per schiarire l'orizzonte. Il rigonfiamento della terra si frapponeva fra l'orizzonte e Henderson Creek, dove a mezzogiorno l'uomo stava camminando sotto un cielo limpido, che non proiettava nessuna ombra. Alle 12:30 esatte arrivò alla diramazione del torrente. Era soddisfatto del passo che aveva impresso alla marcia. Avanti così, e senza dubbio alle 6 sarebbe arrivato al campo dei ragazzi. Sbottonò il giaccone, poi la maglia per estrarre il pranzo. Un'azione di meno di 15 secondi, comunque sufficienti a riportare le dita esposte al freddo in uno stato di insensibilità. Non rimise subito la muffola, perché preferì picchiare una decina di volte le dita contro le gambe con violenza. Infine si sedette a mangiare su un tronco ricoperto di neve. Dopo aver picchiato con forza le dita, aveva sentito una fitta, ma poi la sensibilità se ne andò di nuovo, con una velocità tale da allarmarlo sul serio. Non c'era nessuna possibilità di dare un morso alla galletta. Ripeté l'operazione precedente sbattendo con forza le dita, che poi infilò nuovamente nella muffola, denudando l'altra mano per mangiare. Provò a ingoiare un boccone, ma la museruola di ghiaccio glielo impedì. Si era dimenticato di preparare un fuoco per farla sciogliere. Trovò divertente quel suo gesto maldestro, ma mentre ridacchiava notò che le dita esposte stavano diventando insensibili. Si rese conto che non provava più quella fitta alle dita dei piedi che aveva avvertito quando si era seduto. Si chiese se i piedi erano caldi o freddi e quando li mosse nei mocassini stabilì che erano insensibili. A questo punto si era spaventato, si rimise la muffola, si alzò pestando i piedi su e giù, sino a quando non sentì nuovamente quella fitta. Pensò che faceva veramente freddo. L'uomo di Sulphur Creek aveva detto la verità quando gli aveva raccontato che in quella regione certe volte faceva freddo sul serio. Lui però quella volta gli aveva riso in faccia. Mai essere troppo sicuri, no, non poteva sbagliarsi, faceva un freddo dannato. Passeggiò avanti e indietro, pestando i piedi e sbattendo le braccia sui fianchi, fino a quando il ritorno del calore corporeo non lo rassicurò. Solo allora estrasse i fiammiferi per fare un fuoco. Prese la legna da bruciare nel sottobosco, dove la piena della primavera aveva sistemato una scorta di ramoscelli stagionali. Facendo attenzione, da un fuocherello riuscì ad attizzare un bel fuoco crepitante che sciolse il ghiaccio dal viso e, così protetto dal calore della fiamma, riuscì a mangiare le gallette. Per il momento aveva sconfitto con intelligenza il freddo circostante. Davanti al fuoco il cane era soddisfatto e si teneva abbastanza vicino per godere del caldo, ma distante a sufficienza per non bruciarsi. Finito di mangiare, l'uomo riempì la pipa, prendendosi il tempo di una piacevole fumata. Quindi rimise le muffole, sistemò bene per le orecchie del cappello e riprese la pista della diramazione sinistra del torrente. Il cane rimase deluso e si girò verso il fuoco con brama evidente. Quest'uomo non conosceva il freddo, probabilmente tutta la sua stirpe era rimasta ignara del freddo vero, del freddo a 77 gradi sotto il punto di congelamento. Il cane invece sapeva, tutta la sua razza sapeva e così aveva ereditato quella conoscenza. E sapeva che non era bene andare in giro con quel freddo spaventoso. Era tempo di accucciarsi in una buca nella neve e attendere che un sipario di nuvole calasse sulla superficie dello spazio esterno, là da dove proveniva questo freddo. D'altro canto, non c'era alcuna intimità tra quel cane e quell'uomo. Il cane era lo schiavo da fatica dell'uomo e le uniche carezze che avesse ricevuto erano quelle della frusta. Il cane non faceva alcuno sforzo per comunicare la propria apprensione al padrone. Non era preoccupato per il benessere dell'uomo, e se si era rivolto a guardare bramoso verso il fuoco che stava abbandonando, lo aveva fatto solo per se stesso. Ma l'uomo aveva fischiato, e la sua voce era come il suono delle frustate. Il cane si voltò e riprese a seguire il padrone. Con una nuova manciata di tabacco in bocca, l'uomo riprese a formare la barba ambrata. Dopo poco, il respiro umido ricominciò a sbiancare baffi, sopracciglia e barba. Sulla diramazione sinistra dell'Henderson non sembravano esserci molti rigagnoli e infatti per mezz'ora non se ne vide nessuno. E poi accadde. Arrivato in un punto dove nulla lasciava presagire una trappola, dove la neve morbida e intatta sembrava confermare la solidità sottostante, l'uomo sprofondò. Non sprofondò di molto, si era bagnato fino alle ginocchia e si fiondò subito fuori, sulla crosta solida. Era arrabbiato e imprecò rumorosamente contro la sorte. Aveva sperato di arrivare dai ragazzi al campo per le 6 in punto e questo imprevisto lo avrebbe fatto ritardare di un'ora. Doveva infatti preparare un fuoco e asciugare i mocassini, perché a quella temperatura era un imperativo assoluto. Lo sapeva e questo gli bastò. Si spostò verso l'argine, lo risalì e arrivato in cima trovò un deposito di legna secca da ardere creato dalla piena, che era rimasto aggrovigliato al sottobosco vicino ai tronchi di molti alberi più piccoli. Si trattava soprattutto di ramoscelli e bastoncini, ma c'erano anche pezzi di rame più grandi e stagionati e l'erba secca della primavera precedente. Cominciò con il buttare sulla neve i pezzi più grandi, che avrebbero costituito la sede del fuoco, evitando di farlo crollare su se stesso, sciogliendo la neve sottostante. estrasse dalla tasca un pezzo di corteccia e, sfregandola con un fiammifero, accese il fuoco più velocemente che se avesse avuto della carta. Poi posò la corteccia sulla base e ravvivò la fiamma utilizzando manciate d'erba secca e i rami più piccoli. Lavorava con attenzione, lentamente, ben consapevole del pericolo che stava correndo, e la fiamma gradualmente cresceva, mentre l'uomo, per darle vigore, si serviva di rami secchi, via via sempre più consistenti. Si accovacciò nella neve, estraendo i ramoscelli incastrati nella boscaglia per gettarli direttamente sul fuoco. Sapeva di non poter fallire. Quando un uomo con i piedi bagnati si trova a 60 sotto zero, non deve fallire il primo tentativo di accendere un fuoco. Se fallisce con i piedi asciutti, può correre per 700-800 metri sulla pista e riattivare la circolazione. Ma quando ci sono 60 gradi sotto zero, correre per far tornare a circolare il sangue nei piedi bagnati che stanno congelando non serve a niente. Puoi correre, ma più vai veloce, più i piedi si congelano. L'uomo sapeva bene tutto questo. L'autunno precedente, il veterano in Sulphur Creek lo aveva avvertito e solo adesso comprendeva pienamente il senso di quel consiglio. Intanto la sensibilità ai piedi se n'era andata e siccome per preparare il fuoco aveva dovuto togliere le muffole, anche la percezione delle dita si era dileguata altrettanto velocemente. Il ritmo di 6 km orari aveva permesso al suo cuore di pompare sangue sino alla superficie corporea, ma non appena si era fermato, l'effetto era andato scemando. Il freddo dello spazio circostante tormentava quell'estremità indifesa del pianeta, e lui era lì, proprio su quella estremità indifesa del pianeta, esposto all'assalto serrato, di fronte al quale il sangue si fermava. Il sangue, come il cane, era vivo e, come il cane, voleva solo nascondersi per proteggersi dal freddo spaventoso. Camminando a 6 km all'ora, per amore o per forza, era riuscito a far circolare il sangue nelle vene, ma ora il sangue rifluiva, inabissandosi nei recessi del corpo. Furono le estremità a percepirne per prime l'assenza. I piedi erano bagnati e congelavano più rapidamente. Le dita, esposte all'atmosfera, stavano facendo altrettanto, anche se non erano ancora perdute. Guance e naso avevano già cominciato ad indurirsi, mentre su tutto il corpo la pelle rabbrividiva, man mano che perdeva il contatto con il sangue. Ma era salvo. Piedi, naso e guance avrebbero sofferto poco il gelo, perché il fuoco stava cominciando a bruciare con vigore mentre continuava a nutrirlo di ramoscelli non più spessi di un dito. Mancava poco e poi sulla fiamma avrebbe potuto sistemare rami grossi come il suo polso, avrebbe potuto rimuovere le calzature e le avrebbe messe ad asciugare accanto al fuoco, con cui avrebbe nel frattempo scaldato anche i piedi nudi e bagnati. Naturalmente, prima li avrebbe strofinati con la neve. Il fuoco era un successo, era al sicuro. Gli venne in mente il consiglio del veterano in Sulphur Creek e sorrise. Era un esperto quello e l'aveva messa giù dura, gli aveva detto che nessun uomo deve viaggiare da solo sotto i 45 gradi, perché quella era la legge del Klondike. Beh, adesso, invece, lui era qui, aveva avuto l'incidente, era da solo e si era salvato. Certi veterani, pensò, sono proprio donnicciole. Se sai mantenere la calma, è fatta. Chiunque fosse abbastanza uomo poteva viaggiare da solo, pensò, notando contemporaneamente a che razza di velocità naso e guance stessero congelando. Chi avrebbe detto che le dita potessero diventare insensibili così velocemente? La vita le stava abbandonando, visto che non riusciva più a muoverle insieme per afferrare un ramoscello e che gli apparivano distanti dal resto del corpo. Ogni volta che toccava un ramoscello, prima doveva guardarlo per capire se era riuscito a prenderlo. Tra lui e i polpastrelli la comunicazione era ormai interrotta. Ma tutto questo che importava? Il fuoco era lì, scoppiettava e crepitava, ogni fiammella danzante era una promessa di vita. Cominciò a slacciare mocassini rivestiti di ghiaccio. Le spesse calze tedesche erano come guaine di ferro strette sotto al ginocchio e le stringhe dei mocassini lenz d'acciaio ingarbugliate dopo una conflagrazione. Provò a tirare con le dita insensibili per un attimo, poi, quando fu chiaro che era pura follia, estrasse il coltello dal fodero. Ma prima che potesse tagliare le stringhe, accadde. Fu colpa sua, o piuttosto aveva commesso uno sbaglio. Non avrebbe dovuto preparare il fuoco sotto l'abete. Avrebbe dovuto accenderlo all'aperto, ma così era stato più facile prendere i ramoscelli dalla boscaglia per poi buttarli direttamente sul fuoco. L'albero sotto il quale si era sistemato portava sui rami un fardello di neve. Erano settimane che non tirava un soffio di vento, ogni ramo era carico al suo limite. Estraendo dalla boscaglia un ramoscello dopo l'altro, aveva comunicato all'albero una leggera agitazione, producendo un impercettibile frullio, turbamento sufficiente a richiamare il disastro. Un ramo in cima all'albero aveva rovesciato il proprio carico di neve, che era caduto sui rami sottostanti, rovesciandoli a loro volta. Il processo era continuato, allargandosi e coinvolgendo tutto l'albero. Era diventata una valanga e si abbatté senza preavviso sull'uomo e sul fuoco, che così venne estinto. Nel punto dove aveva bruciato fulgido il fuoco, un mantello di neve fresca e farinosa copriva il terreno. L'uomo era sconvolto, era appena stata pronunciata la sua condanna a morte. Per un attimo restò seduto a fissare il punto dove poco prima ardeva un fuoco e infine si calmò. Forse il veterano di Sulphur Creek aveva ragione: se ci fosse stato con lui un compagno di viaggio, non avrebbe corso nessun pericolo. Toccava dunque a lui e solo a lui preparare un secondo fuoco, e questa volta non poteva permettersi il minimo errore. Anche nell'ipotesi che ce l'avesse fatta, avrebbe perduto sicuramente qualche dito, i piedi erano congelati e ci sarebbe voluto del tempo prima che il secondo fuoco fosse pronto. Mentre rifletteva, non era rimasto fermo, i pensieri attraversavano la sua mente, ma lui continuava a darsi da fare. Allestì una nuova base sulla quale preparare il fuoco, ma questa volta a cielo aperto, dove nessun albero traditore avrebbe potuto spegnerlo, e poi radunò l'erba secca e i piccoli ramoscelli, presi dai detriti lasciati dalla piena. Non riusciva a unire le dita per tirarle a sé, ma a manciate poteva radunare un certo numero, anche se in questo modo raccoglieva molti ramoscelli marci e pezzi di muschio verde che non avrebbero certo aiutato il fuoco, ma meglio di così non poteva fare. Lavorava con metodo e riuscì a radunare anche rami più grandi per dopo, quando il fuoco sarebbe stato ben avviato. Intanto, il cane era rimasto seduto ad osservarlo con una malinconia speranzosa nello sguardo, poiché nell'uomo vedeva colui che doveva provvedere al fuoco, e il fuoco tardava ad arrivare. Quando fu tutto a posto, l'uomo mise la mano in tasca per estrarre un secondo pezzo di corteccia di betulla. Non riusciva a sentirlo con le dita, ma sapeva che era lì. Alle orecchie arrivava il fruscio mentre armeggiava nella tasca. Provò e riprovò, senza riuscire ad afferrarlo, nella piena consapevolezza che anche i suoi piedi stavano congelando. Il pensiero lo angosciava, ma riuscì a scacciarlo e a mantenersi calmo. Con i denti rimise i guanti e agitò le braccia avanti e indietro, battendo le mani con tutta la propria forza contro i fianchi. Compì l'operazione rimanendo seduto e si alzò in piedi per portarla a termine. Il cane era accovacciato nella neve con la coda dal pelo lupino arrotolata attorno alle zampe anteriori per tenerle calde e con le aguzze orecchie da lupo, vigili e puntate in avanti, osservava l'uomo che picchiava ed agitava le braccia. L'uomo guardava la creatura al caldo e al sicuro, sentendo salire dentro l'invidia per la protezione naturale di cui godeva l'animale. Passò del tempo. Cominciò a sentire distanti segnali provenienti dalle dita che tornavano alla sensibilità, un formicolio leggero che crebbe sino a farsi dolore pungente. Era come se lo stessero torturando, ma egli accolse quella sofferenza con soddisfazione. Strappò la muffola dalla mano destra e afferrò la corteccia di betulla, ma le dita, non appena esposte, tornarono ad essere insensibili. Estrasse subito il mazzo di fiammiferi dalla tasca interna, ma il freddo tremendo aveva ormai paralizzato le sue dita. Si sforzò di separare i fiammiferi e il mazzo cadde nella neve. Provò a raccoglierli, ma non poteva farcela perché le dita congelate non riuscivano nemmeno a toccarli, figurarsi ad afferrarli. Scacciò dalla mente il pensiero dei piedi, del naso e degli zigomi congelati. Doveva concentrarsi sui fiammiferi e adesso doveva fare parecchia attenzione. Invece del tatto, usò la vista. Guardò i fiammiferi e quando vide le dita sui due lati del mazzo, le chiuse. Sarebbe meglio dire che espresse la volontà di chiuderle, ma la comunicazione nervosa era interrotta e quindi le dita non obbedirono. Sfilò la muffola dalla mano destra e la sbatté con forza contro il ginocchio. Rimessi i guanti, radunò in grembo i fiammiferi sparsi per terra, ormai coperti di neve. Le cose non miglioravano. Trafficando un po', riuscì a prendere il mazzo di fiammiferi tra le mani coperte dalle muffole, quindi lo portò alle labbra mentre il ghiaccio, a causa del violento sforzo che l'uomo dovette produrre per aprire la bocca, scoppiettava frantumandosi. Tirò con forza la mascella verso il basso e sollevò il labbro superiore. Niente, non riusciva a prendere il mazzo. Allora escogitò un sistema che gli permise di prendere un fiammifero fra i denti e sfregarlo sulla gamba. Sfregò 20 volte prima di riuscire ad accenderlo, e mentre la fiamma cresceva lo tenne coi denti vicino alla corteccia di betulla, ma l'esalazione di zolfo aggredì le narici e i polmoni. L'uomo tossì spasmodicamente, il fiammifero cadde nella neve e si spense. Il veterano di Sulphur Creek aveva ragione. Fu il pensiero che formulò subito dopo il fremito di controllata disperazione. Sotto i 45 sotto zero bisognava viaggiare con un compagno. Sbatté ancora le mani senza risultato e poi all'improvviso sfilò le mufole con i denti, afferrò il mazzo di fiammiferi con i pollici nudi riuscendo a fare pressione, visto che i muscoli delle braccia non erano congelati. Sfregò quindi il mazzo sulla gamba e i 70 fiammiferi si accesero tutti insieme. Non c'era vento che potesse spegnerli. L'uomo volse il capo per sfuggire alle esalazioni e tenne il mazzo infuocato vicino alla corteccia di betulla. Reggendoli si accorse che la mano stava riacquistando sensibilità, la sua carne bruciava, ne percepiva l'odore, ma ben sotto la superficie corporea riusciva ad avvertire una sensazione che si trasformò presto in un dolore penetrante e acuto. Tenne duro, ma la fiamma prodotta dai fiammiferi, che egli teneva con fare impacciato vicino alla corteccia, non bastava ad accendere il fuoco, poiché le sue mani la ostacolavano, assorbendone quasi tutto il calore. Non potendo resistere oltre, ritirò, aprendole le mani, e i fiammiferi incendiati caddero sibilando nella neve, ma almeno la corteccia di betulla era accesa. Procedette a stendere erba secca e piccoli ramoscelli sulla fiamma, senza potersi permettere di scegliere perché doveva sollevare il combustibile con i soli pollici delle mani. Attaccati ai ramoscelli c'erano pezzetti di legno marcio e muschio verde, che egli tolse con i denti e morse, facendolo il proprio meglio. Curava con amore la fiamma, con i movimenti incerti. La fiamma significava vita e non doveva spegnersi. Il sangue intanto si stava ritirando dalla superficie corporea e cominciò a farlo rabbrividire. I suoi gesti si fecero maldestri e quando un grosso pezzo di muschio verde cadde in pieno sulla debole fiamma, l'uomo, adoperandosi per allontanare il muschio con le dita, tremando incontrollatamente per il freddo, esagerò, facendo volare in aria l'erba secca e i piccoli ramoscelli e distruggendo il nucleo della fiamma. Cercò di riattizzarla avvicinando i ramoscelli, ma nonostante lo sforzo intenso il tremolio ebbe la meglio. I ramoscelli si sparsero in giro senza rimedio, spegnendosi con uno sbuffo di fuoco. Il procacciatore di fuoco aveva fallito. Si guardò intorno quasi con apatia e posò casualmente gli occhi sul cane che, seduto nella neve di fronte a lui oltre le rovine del fuoco, si agitava inquieto. L'istinto gli faceva alzare le zampe anteriori, prima una e poi l'altra, mentre spostava il peso avanti e indietro, impaziente e bramoso. Vedendo il cane gli venne un'idea folle, perché si ricordò la storia di un uomo sorpreso da una bufera che uccidendo un vitello si era accucciato nella carcassa salvandosi la vita. Ecco cosa avrebbe fatto, avrebbe ucciso il cane e infilato le mani nel corpo ancora caldo della bestia sino a ripristinare la circolazione, poi avrebbe potuto preparare un nuovo fuoco. Si rivolse al cane chiamandolo a sé, ma lo strano tono di paura nella sua voce spaventò l'animale, non aveva mai sentito l'uomo parlare in quel modo. Qualcosa l'aveva sorpreso e la sua natura sospettosa avvertiva il pericolo. Non sapeva di che tipo, ma a suo modo, in qualche zona del cervello, sviluppò diffidenza nei confronti dell'uomo. Al suono della voce abbassò le orecchie e l'istinto gli fece intensificare il movimento delle zampe anteriori. Il cane non si avvicinò, ma l'uomo si mise a quattro zampe e strisciò verso l'animale. Quell'insolita postura eccitò il sospetto nell'animale, che arretrò di sghembo, evidentemente allarmato. L'uomo rimase seduto un attimo nella neve, lottando per tornare calmo. Si rimise le muffole usando i denti e si alzò. Lanciò uno sguardo in basso per assicurarsi di essere di nuovo in posizione eretta, visto che l'assenza di sensibilità ai piedi gli dava l'impressione di essere scollegato da terra. Vedendolo in piedi, il cane scacciò i sospetti dalla propria mente. Quando l'uomo si rivolse perentorio all'animale, con il suono della frusta nella voce, il cane assunse la consueta posa di sottomissione e si avvicinò. Quando giunse a tiro, l'uomo perse il controllo e lanciò fulmineo le braccia verso l'animale. Con stupore, constatò che le sue mani non riuscivano ad afferrare le cose e non c'era in loro né sensibilità né possibilità di azione. In quell'attimo aveva dimenticato che erano congelate e che stavano peggiorando. Tutto accade molto velocemente e prima che l'animale riuscisse a sfuggirgli, l'uomo lo aveva già avvinghiato. Sedette nella neve costringendo il cane a fare lo stesso, mentre si lamentava, ringhiava e guaiva. Avvinghiato al cane e seduto nella neve, era il massimo che poteva fare. Non sarebbe riuscito a uccidere il cane, non c'era modo di farlo. Le mani erano inerti e non poteva estrarre il coltello dal fodero o strozzare l'animale, per cui lo lasciò libero. Il cane schizzò via ringhiando selvaggiamente, con la coda tra le gambe. Si fermò a 15 metri di distanza a studiare con curiosità l'uomo, drizzando le orecchie. L'uomo abbassò lo sguardo per cercare le sue stesse mani e le trovò che penzolavano all'estremità delle braccia. Che strano, pensò, dover usare gli occhi per capire dove hai le mani. Riprese a frustare le braccia avanti e indietro, battendo sui fianchi le mani guantate, e continuò così per 5 minuti, sinché il calore non ebbe pompato sangue sufficiente alla superficie corporea per fermare i brividi di freddo. Ma nelle mani non c'era sensibilità, gli sembravano pesi morti appesi in fondo alle braccia e quando provò a localizzare questa sensazione non riuscì a trovarla. Si sentì avvolgere da una certa paura della morte, densa e oppressiva. Era una paura che presto fu pregna di presagi quando comprese che non era più una questione di congelamento delle dita, di perdita delle mani o dei piedi. Era ormai una questione di vita o di morte e tutto giocava contro di lui. Cadde nel panico, si voltò e cominciò a correre lungo il letto del torrente, seguendo la traccia appena visibile del vecchio sentiero. Il cane, rimanendo indietro, si unì all'uomo che correva alla cieca e senza una meta, posseduto da una paura che non aveva mai conosciuto in vita sua. Aprendosi un varco nella neve, si riprese lentamente, osservando ciò che lo circondava: gli argini del torrente, i vecchi ammassi di tronchi, i pioppi spogli e il cielo. Correre lo faceva sentir meglio, non tremava più. Magari se continuava a correre sarebbe riuscito a sgelare i piedi e raggiungere il campo dove lo aspettavano i ragazzi. Avrebbe di sicuro perduto qualche dito delle mani e dei piedi e anche la sensibilità di un pezzo di faccia, ma i ragazzi si sarebbero presi cura di lui salvando il resto. Contemporaneamente la sua mente era preda di un altro pensiero. Una voce gli diceva che non sarebbe mai arrivato al campo dai ragazzi, che c'erano troppi chilometri da percorrere e che il congelamento si era ormai preso troppo di lui. Insomma, quella voce gli diceva che presto si sarebbe irrigidito come un cadavere. Quella stessa voce gli diceva che era un uomo morto. Rimise in secondo piano l'idea e rifiutò di prenderla seriamente in considerazione, ma quella voce protestava, voleva tornare a essere protagonista, chiedeva ascolto, mentre lui la respingeva provandosi a concentrare su altro. Trovava strano poter correre su piedi talmente congelati da non riuscire a sentirli ogni volta che toccavano la terra per sostenere il peso del suo corpo. Gli sembrava quasi di scivolare lungo la superficie del torrente, senza averle nessun legame con la terra. Da qualche parte, una volta, gli era capitato di vedere un mercurio alato e si domandò se Mercurio si era sentito come lui quando in volo aveva sfiorato la superficie terrestre. La sua teoria, quella di correre sino al campo dove c'erano i ragazzi, aveva una falla. Lui non aveva la resistenza necessaria. Inciampò varie volte e, incespicando, alla fine si schiantò a terra. Provò a rialzarsi ma fallì. Decise che era meglio sedersi e riposare, e quando si sarebbe rialzato, limitandosi a camminare, avrebbe proseguito. Mentre riprendeva fiato, restando seduto, notò che si sentiva caldo e a proprio agio. Non solo non stava tremando, ma il petto e il busto sembravano aver riguadagnato un piacevole calore. Nonostante ciò, toccandosi il naso e guance, non avvertì nulla. Correre non avrebbe sgelato naso e guance, e, se per quello, neppure mani e piedi. Qualcosa gli diceva che il gelo si stava impadronendo di altre parti del suo corpo. Si sforzò di tenere a bada questo pensiero, anzi di dimenticarlo, rivolgendo ad altro la sua attenzione, visto che era ben conscio del panico che gli provocava. Aveva paura del panico. Ma il pensiero si impose, resistendo e producendo la visione del suo corpo completamente congelato. Era troppo, riprese a correre selvaggiamente lungo la pista e quando ricominciò a rallentare, sino a camminare, il pensiero del gelo che si impadroniva di lui lo fece ripartire di corsa. Per tutto il tempo il cane gli rimase alle calcagna, correndo con lui, e quando cadde una seconda volta, avvoltolò la coda sulle zampe anteriori e si mise a sedere davanti a lui, osservandolo curioso, intento, impaziente. Il calore e la sicurezza dell'animale lo mandarono in bestia e inveì contro il cane, sino a quando, remissiva, la bestia non abbassò le orecchie. Ma il tremore questa volta si impadronì del suo corpo più rapidamente. Stava perdendo la battaglia con il gelo, che si insinuava dentro di lui in ogni angolo. Questo pensiero lo spinse a proseguire, ma dopo una trentina di metri di corsa, ondeggiò e cadde lungo disteso. Questo fu l'ultimo momento di panico. Dopo aver recuperato il fiato e il controllo, si mise a sedere e cominciò a coltivare l'idea di affrontare con dignità la morte. Certo, il concetto non gli si presentò in questi termini. Per come percepiva i fatti, sapeva di essersi comportato da stupido. Mettersi a correre come una gallina decapitata. Fu questo il paragone che gli venne in mente pensando che si era comportato da stupido. Beh, visto che doveva congelare, meglio prendere con dignità la situazione. Con questa ritrovata pace dei sensi arrivarono i primi barluni del torpore. Buona idea, pensò, si può entrare nella morte passando dal sonno. Sarebbe stato come prendere un anestetico. Dopotutto, congelare non era così male come si diceva in giro. C'erano modi peggiori per morire. Immaginò i ragazzi quando avrebbero trovato il suo corpo il giorno dopo. Eccolo, c'era anche lui assieme a loro lungo la pista a cercare se stesso. Con loro arrivava a una curva e dietro la curva trovava il proprio corpo disteso nella neve. Non apparteneva più a quel corpo, si era già allontanato da esso. Era con i ragazzi e osservava il proprio cadavere disteso nella neve. Fa proprio freddo, pensò. Una volta tornato negli Stati Uniti avrebbe raccontato alla gente cos'era il freddo, quello vero. Poi vagò da questa visione sino al veterano in Sulphur Creek. Lo vedeva nitidamente al caldo e al riparo, mentre fumava la pipa. Vecchio ronzino, avevi ragione tu, mormorò l'uomo, rivolgendosi al veterano in Sulphur Creek. Poi si assopì. Entrò in un sonno che gli parve il più soddisfacente e piacevole che avesse mai provato. Il cane aspettava, seduto di fronte. Il breve giorno si stava chiudendo per infilarsi in un lungo e lento crepuscolo. Non c'erano tracce di alcun fuoco da preparare e nella sua esperienza di cane non aveva mai visto un uomo sedersi nella neve senza prima preparare un fuoco. Mentre il crepuscolo si trascinava, la bramosia impaziente per il fuoco si impadronì di lui e con un gran sollevare e spostare di zampe anteriori prese a guaire piano. Abbassò le orecchie in attesa del castigo dell'uomo, ma l'uomo rimase in silenzio. Poco dopo il cane guaì più forte. E più tardi ancora si spinse accanto all'uomo, dove fu colto dall'odore della morte che gli fece rizzare il pelo mentre indietreggiava. Si attordò ululando sotto le stelle che piroettavano, danzavano e scintillavano lucenti nel cielo freddo. Infine si voltò, cominciando a trotterellare lungo la pista in direzione del campo. Lì avrebbe trovato altri procacciatori di cibo e di fuoco.